Per ragioni di tempo non leggerò il testo che avevo predisposto, mi limito ad una sequenza schematica di punti. Primo, in data 23 giugno 1869, nella prefazione alla seconda edizione del 18 Brumaglio di Luigi Bonaparte, Marx, come è noto, scriveva: spero che il mio scritto contribuirà a liberarci della frase scolastica, ora così corrente, specie in Germania, circa il cosiddetto cesarismo. Ecco, assumo preliminarmente questa citazione di Marx per indicare i termini cesarismo e bonapartismo non come intercambiabili, mentre correntemente vengono considerati equivalenti, fra gli altri per esempio da Roberto Bobbio, ma non mi soffermo su questi aspetti. Mi limito a trattare soltanto il termine cesarismo e da un punto di vista essenzialmente di ricognizione sulla parola. Nella dissertazione accademica del vecchio Wilhelm Roscher, Un gris sur naturlehre des Caesarismus, del 1888, era riportata la definizione di cesarismo fornita dal dizionario della Nipre. La cito nella traduzione italiana che figura nel saggio sempre fondamentale di Arnaldo Momigliano per un riesame della storia dell'idea di cesarismo del 1956. Dominazione di principi portati al governo dalla democrazia ma rivestiti di potere assoluto. Una sorta di terza via. Regina Pozzi parla di terza alternativa di indubbia originalità nel corso di un XIX secolo che fino al colpo di Stato del 2 dicembre 1851 si era trovato a dover scegliere tra reazione e rivoluzione. La valutazione di Regina Pozzi è certamente da cogliere e da condividere, anche se risalendo alle dispute contemporanee, il cesarismo fu ascritto dove? Al campo della reazione, dove? Al campo della rivoluzione. Nel caso della rivoluzione, magari obbligata, come ritenne Proudhon nei primi anni 50. Nello studio di Roscher, la definizione del dizionario del Libre veniva subito dopo la citazione del pamphlet storico-politico di François Auguste Rougned, L'ère des Césars, apparso nel 1850, non tratto del contenuto di questo opuscolo, di questo pamphlet, per ragioni di tempo. Sottolineo soltanto che appare prima del colpo di Stato di Luigi Bonaparte. Quando Roscher se ne occupava, verso la fine del XIX secolo, il riconoscimento a Rougned della paternità del neologismo di matrice classicistica, cesarismo, era largamente acquisito. Nel 1851 Rougned venne tradotto in tedesco con un titolo rispondente anche letteralmente al contenuto, ma mutato rispetto all'originale. Der Caesarismus oder die Notwendigkeit der Säbelherrschaft. Il traduttore tedesco, cioè, intese, primo, far figurare la parola cesarismo fin nel titolo. Certamente forse Montigliano più caldamente, Crista più decisamente, hanno ragione per sostenere il primato di Jacob Burckhardt se noi pensiamo alle opere a stampa, quelle che un lettore era agevolmente, insomma, in grado di leggere. Peraltro, se passiamo ad altro tipo di testimonianze, gli epistolari, che hanno natura privata, ma che comunque quando Montigliano e Crista studiavano, e per Crista studiano, erano disponibili, ecco, io credo che una precedenza temporale vada a una lettera di Droysen del 13 dicembre 1851. Ecco, quindi soltanto 11 giorni dopo il colpo di Stato di Luigi Bonaparte, ecco, dove viene adottata la parola federalismo, se ricorre, insomma, no? In questa lettera. Ricorre due volte federalismus e art federalismus. Colleghiamo molto brevemente l'attenzione su questo secondo riscontro terminologico, art-federalismus. È una sorta di generalizzazione del vocabolo. Che cosa vuol dire un modo cesaristico, un tipo cesaristico? Per noi vuol dire essenzialmente due cose dal punto di vista della attualità storica contemporanea. Dicembre 1850, l'armistizio austro-prussiano di Olmütz e la abdicazione da parte della monarchia prussiana a qualsiasi aspirazione liberale unitaria in quel momento, e dicembre 2, 1851, il colpo di Stato di Luigi Bonaparte. Metaforicamente la art federalismus per noi è la illegittimità. L'illegittimità della politica internazionale, l'appartenenza dei ducati danesi alla Danimarca, la illegittimità sul piano delle forme del potere, il bonapartismo di recentissima affermazione, no? In Francia. Quindi dicembre 51 Droysen una festa federalismo e altro federalismo. Nel 1854 Droysen scrive un importantissimo, avete mio saggio, ma non soltanto mio, intitolato sul characteristic del Europäische Krisis, legato alla immensa esplosione della guerra di Crimea. In questo saggio torna nuovamente il termine cesarismo. Qui non è semplicemente la arte del Stroide, dice Octroirungen e cesarismus sono un segno dei tempi correnti. La visuale della fine del 1851, ancora tutto sommato europeocentrica, nel saggio del 1854, davanti alla crisi della guerra di Crimea, diviene planetaria. Quindi, per sintetizzare, cesarismus con Zeitgeist su scala planetaria per Droysen. Mommsen, in una lettera proprio a Droysen del 12 maggio 1858, lo storico allievo di Niebuhr, Karl Wilhelm Nitsche, facendo riferimento a una sua lunga recensione alla Rheinische Geschichte Mommsen, pubblicata in due riprese nel 56 e nel 58 diceva come il suo punto di vista, suo felice, fosse divenuto nel corso della stesura sempre più tagliente, Schärfer, e anti-cesarisch, e osservava come in generale il cesarismus avesse finito col permeare tutta la storiografia, dal Guglielmo III d'Orange del Mecone agli Ottoni di Dire. Riferimento cioè, ovviamente alla storia completa dall'avvento di Giacomo II di Mecone, la Geschichte des Deutschen Kaiserreichs di Biesenrecht. Che cosa ci dice molto in breve questa lettera di Nietzsche ad Reusen sulla Rheinische Geschichte di Mosse, quindi i vertici più alti, insomma, no? Della storiografia tedesca e non solo tedesca del XIX secolo. L'impatto del termine, io non lo chiamo mai concetto, del termine cesarismo o dell'idea di cesarismo, nella medesima lettera, passato appunto a Mommsen, Nietzsche aggiunge: l'esempio più raffinato e ingegnoso in Germania è a mio avviso Mommsen, e perciò il suo libro mi appare sospetto e intrinsecamente non vero. Questa reazione negativa alla Rheinische Geschichte di Mommsen è abbastanza diffusa. Soltanto qualche esempio: Montalembert la definì un'apoteosi del dispotismo. Ludwig von Pastor, nel suo diario a metà settembre 1873, non mi piace il cesarismo di Mommsen. Ecco, qui magari poi in altra sede occasione sarà da appurare questi punti di vista che si connotano anche con i cattolici, non è soltanto un sentimento storiografico, e cattolici molto lontani tra loro, o Montalembert e von Pastor, no? O un professore di diritto romano dell'Università di Losanna, Josef Hornung, scrive un opuscolo di vicino pubblica nel 1865 intitolato L'Histoire romaine e Napoléon III. Ecco, qui dice Mommsen è alla moda e osserva stile favorable a Jules César. Ecco, e osservava, aggiungeva, e questo è un grosso problema sulla quale purtroppo per verità di tempo non posso soffermarmi, come Napoleone III nella sua Histoire de Jules César, che esce in due parti nel 1865 e 1866, si fosse servito soprattutto del terzo volume della Rheinische Geschichte di Mommsen. Su Napoleone III, dicevo, non posso fermarmi, accenno soltanto un episodio di storia della cultura molto curioso, così diciamo contiguo alla questione del cesarismo. Ecco, è evidente che per Napoleone III, la metà degli anni 60, enfatizzare più cesaristicamente Giulio Cesare significava forse un grosso problema per Cinquecento. Ecco, che invece, ecco, il Duca Donato sulla Revue des Mondes nel 1858 definisce come le premiere francese precursore di Giovanna d'Arco. Allora il problema di Napoleone III è quello di come rendere compatibili le origini del nazionalismo francese per Cinque e se Giulio Cesare e se medesimo come incarnazione vivente del cesarismo. Ecco, chiaramente questa è un'operazione complicata, lui ci riesce in un certo modo. Ecco, non tratto, nonostante presenti elementi un po' divertenti, questo aspetto. Mommsen ci pone il problema della presa del generalismo negli studi storici non europei della metà, seconda metà del XIX secolo. Anche Mommsen, seppure direttamente da Burckhardt, intende invece distinguere Cesare e Cesarismo. C'è un'aggiunta nel 1857 al terzo volume della Regnische Geschichte dove Mommsen si sofferma proprio su questo punto. Io non lo tratto, però l'aspetto terminologico devo considerarlo perché riguarda direttamente la storia del Perugino. Mommsen usa Cesarismus, siamo nel 1857, per indicare il cesarismo contemporaneo. Molto schematicamente il bonapartismo francese. Poi però quando la prima identica pagina si riferisce al cesarismo di Giulio Cesare, usa il termine Cesarentum. Ecco, questo a mia conoscenza non l'ha individuato nessuno. No? Vale a dire, ecco, da Romier in poi il neologismo plasticistico in voga è Cesarismus. Però Cesarentum non è Kaisertum. Tant'è che nelle traduzioni italiane si rende con Cesarismo tanto Cesarismus quanto Cesarentum. Manifestamente che Mommsen adombra la medesima idea facendo ricorso a due termini diversi, è per lui insomma un segnale di distinguere l'attualità dall'antico. Mi avvio a concludere con una considerazione su Cesare. Il 22 luglio 1832 morì il duca di Aosta, il figlio di Napoleone. Heinrich Heine si trovava in Normandia ed inizia così la sua corrispondenza per la Gazzetta di Augusta del 20 agosto di quell'anno. Non si ha idea di quale impressione abbia suscitato nelle classi inferiori del popolo francese la morte del giovane Napoleone. Questo articolo di Heine è un testo straordinario. Prosegue il peso. Come Cesare diede il suo nome al mero potere dittatoriale, così Napoleone dà il proprio a un nuovo cesarismo, al quale è chiamato solo chi possegga la suprema capacità e la volontà migliore. Sotto un certo riguardo, Napoleone fu un imperatore sansimoniano. Ecco, la citazione di questa corrispondenza regnana, non posso farmi velo di una scoperta non mia, si trova nella voce Cesarismus, Napoleonismus, Führer, Chef, di Dieter Groh, nei Geschichte di Grundbegriff. Quello che posso dire nel mio piccolo è che Dieter Groh se la spende male dal punto di vista critico-interpretativo, però, ecco, la recensione. Ora, il termine tedesco per dire cesarismo, in Heine, 20 agosto 1832, è Cesare. Cioè l'identico termine che abbiamo visto poc'anzi in Mommsen, sdoppiato con cesarismo. Ora, in Heine, il distinguo, insomma, no, è fra la Blosse Herrscher Gewalt, il potere dittatoriale antico, Giulio Cesare, e il Neues Cesare, il nuovo cesarismo, quello di Napoleone I. A sua volta, e questa è una definizione che è tutto un poema, definito imperatore sarsimoniano. Oh, ahimè, nel 1831-32, nel 1831-31 come noto, era giunto a Parigi, aveva frequentato i circoli sarsimoniani nella capitale francese poco dopo, in sostanza, ma sempre poco dopo, questo comunque è il suo libro che è fondamentale, non fu che Simone Greco, è tornato di luglio, e un sul producteur, l'organo sarsimoniano, negli anni 1825-26, Norano d'Ardèche, in un articolo dal titolo De Préjugés Historiques, aveva definito Cesare come il campione del normal progressivo della società. Nel 1828 Norano d'Ardèche aveva pubblicato un importante risparmio di Corea. Ecco, allora, chiaramente questo è l'humus all'interno del background, all'interno del quale matura la visione aeneana del Cesare, che peraltro qui interessa soltanto per il termine comico. Ma io smetto e confesso, insomma, oltre ad aver eliminato del tutto la parte introduttiva sulla distinzione nell'uso di entrambe le parole, cesarismo e bonapartismo, ho non tratto tutta la parte francese relativa a due massimi autori, Proudhon, che è importantissimo in questa ricognizione sul termine cesarismo, e Tocqueville, il quale, a parte quello che avevo citato prima, la possibile sua conoscenza del libretto di Romier per il riferimento alla metafora della sciabola, poi la stessa di Pietro Nenni del 1964, cioè quando ci sono utilizzato Ettore nella spada, la sciabola, quella che fa sentire i suoi fragori, insomma, no? Bene, ecco, Tocqueville, cioè un testo bellissimo della democrazia in America, quindi del 1840, la seconda democrazia in America, in cui dice, parafraso, ci vorrebbe una parola adatta per significare questo e quest'altro e descrivere quello che convenzionalmente in seguito sarà definito cesarismo. Quindi, per la scansione temporale, il 1832 di Heinrich Heine, il 1840 Tocqueville ci vorrebbe una parola adatta per descrivere, e questa parola non la trova e ci rimanda nella sua biografia intellettuale agli straordinari abbozzi sorrentini dell'anziano regime. Ecco, quindi Tocqueville, nella sua particolarissima maniera, è un silenzio quanto all'uso del vocabolo più eloquente rispetto a quanti lo hanno effettivamente registrato. Tutto qua.